Quando cadi e cerchi di rialzarti, quando pensi che non esista una via di uscita dai tuoi problemi, cerca sempre la speranza. Ogni volta che si chiude una porta, se ne apre un'altra. Ed è proprio quando credi che tutto sia finito, che tutto comincia. Il respiro maligno mi attacca nel suolo. Il bene è chiuso in uno scrigno ma vuole spiccare il volo. Ogni volta penso realmente a cos'è successo e tra di me ripeto sempre che la smetto, ma non riesco a stare fermo questa notte. È la resa dei conti ma ho il destino che mi fotte. Tra le lotte cerco una via di uscita, ma siamo ai supplementari, la partita qua non è finita. Penso e cerco a come liberarmi da questi guai, ma la formula perfetta io non la capirò mai. In giro troppi scandali, c'è chi ne esce con aiuto e speranza, e chi con gli psicofarmaci, c'è chi sopporta e chi va via. E quando te sbatti la porta soffro di malinconia, senza compagnia, sangue dalle narici. Ma meno male che in sto mondo almeno esistono gli amici. La speranza di credere in un mondo migliore. Abbassate quelle armi e usate le parole. Cerchi davvero un mondo su misura, dipingi la tua vita eliminando la paura. Senza violenza è la soluzione, risolvere l'enigma della rabbia solo con le tue parole. Ma come fai a scrivere una vita nuova se le tue doti non le metti mai alla prova? Ed ogni volta che mi guardo allo specchio non riesco a capire se il male è dentro di me. Ed ogni volta che vedo, ogni volta che scrivo, non riesco mai a chiedermi il perché. La speranza non c'è. Il respiro maligno mi attacca nel suolo. Il bene è chiuso in uno scrigno ma vuole spiccare il volo. Realmente tu lo sai, realmente io lo so, che nel deserto in cui vivo da solo cercherò. Se sogni non vedi e suona la sveglia, ma se guardi dentro te la tua mente si risveglia. Parole forti e dirette, anche se dette da un quindicenne, quindi me le tengo strette. I giorni passano e i consigli si intuiscono. In questa esperienza i tuoi valori rifioriscono. Abbandona ciò che porta all'odio e alla dipendenza. Dipendi dalle risate, vivi questa adolescenza con sorrisi e obiettivi, lunghe camminate. Per questi motivi il paradiso lo sperate. Cogli l'attimo e non pensare ad altro. Se cerchi musica e speranza, questo è il tuo reparto. Ogni volta che mi guardo allo specchio non riesco a capire se il male è dentro di me. Ed ogni volta che vedo, ogni volta che scrivo, non riesco mai a chiedermi il perché. La speranza non c'è. Posso vivere una storia in una serata e lasciare indietro una vita dimenticata. Il respiro del male in questa calda giornata rimane dentro una cella incatenata. Scrivi ogni momento, istante in un graffito. La vita è come una scala verso l'infinito. Scrivi ogni momento, istante in un graffito. La vita è come una scala verso l'infinito. Ed ogni volta che mi guardo allo specchio non riesco a capire se il male è dentro di me. Ed ogni volta che vedo, ogni volta che scrivo, non riesco mai a chiedermi il perché. La speranza non c'è.